Intanto torniamo in piazza, nel senso è obbligatorio perché purtroppo è l'anniversario di quello che è successo l'8 marzo 2020, quindi diciamo che la manifestazione davanti al carcere è stata organizzata principalmente per questo motivo, perché ad un anno da quella che è stata la strage del carcere di Sant'Anna non ci sono sufficienti informazioni, non è stata fatta chiarezza, non sono state prese posizioni chiare da parte delle istituzioni e quindi diciamo che sembra che l'intenzione sia quella di far calare il silenzio, cosa che noi invece non vogliamo, e ci batteremo sempre perché venga fatta luce su quello che è accaduto quel giorno, che ha causato la morte di 9 persone. Diciamo che questa è sicuramente la motivazione che ha spinto il comitato anche a formarsi a suo tempo. Si aggiunga che è particolarmente importante esserci nonostante le limitazioni Covid, perché Modena è entrata in zona rossa, però insomma è veramente importante esserci perché è notizia di pochi giorni che si è chiesta l'archiviazione per 8 delle 9 morti di Modena, quindi praticamente per tutti i morti tranne per Sasà Piscitelli. Questo non deve passare, non chiaramente, e quindi è proprio quel momento in cui è importante far capire che c'è una parte di società sana che non ha nessuna intenzione di mollare e lasciare che cali silenzio e ombra su questo tragico avvenimento. Proprio su questo, sulla richiesta di archiviazione da parte della procura, la procura dice le autopsie hanno confermato che si tratta di morti per overdose, non sono state rilevate sottovalutazioni o comportamenti illeciti da parte della polizia penitenziaria né da parte del personale medico. Voi cosa rispondete? Ma rispondiamo che è quantomeno opinabile, nel senso sicuramente intanto bisogna farla partire questa indagine e portarla a termine con intenzione reale, perché comunque ricordiamoci che delle persone sono morte durante il trasferimento o a trasferimento avvenuto, quindi vuol dire che anche se fosse che tutti i morti sono stati causati dall'abuso di metadone, come appunto la versione ufficiale sostiene, in ogni caso la responsabilità della morte di queste persone va chiarita, nel senso una persona che in fin di vita non deve essere spostata e non deve essere trasferita in un'altra città. Voi in queste settimane, in questi mesi avete preparato un dossier raccogliendo anche testimonianze, no? Sì, vi dico che con somma gioia questo lavoro pantagruelico, che alla fine arriva ad essere un dossier di 122 pagine, e l'abbiamo terminato ufficialmente ieri sera, quindi lo presenteremo il 7 marzo e dal 7 marzo inizieremo a spedirlo appunto a tutte le redazioni, testati, chiunque sia interessato, interessata a darci una mano a diffonderlo il più possibile. È un dossier che si divide in mesi e per ogni mese si raccolgono le informazioni che sono uscite più appunto delle testimonianze inedite che siamo riusciti ad avere noi durante questo anno. Le testimonianze inedite sono un'altra cosa interessante, nel senso che anche al di là delle cause della morte delle 9 persone nel carcere di Sant'Anna, c'è anche da indagare su quello che è stato il comportamento delle istituzioni penitenziarie nei confronti di chi veniva da Modena, di chi secondo loro aveva preso parte alla rivolta, anche se così non era. Sappiamo appunto dell'esposto in cui si denuncia che una volta arrivati ad Ascoli ci siano stati abusi sia psicologici che fisici, e questo è un dato ricorrente nelle testimonianze che sono state raccolte in questo anno, quindi anche questo comunque deve essere sede di indagine. Non è legittimo che possa succedere una cosa del genere in uno stato che si dice democratico. Ci vediamo in piazza davanti al carcere di Sant'Anna, appunto, qui a Modena, alle 10:30 domenica 7 marzo, per appunto cercare di tenere alta l'attenzione su quelle che noi speriamo essere indagini che andranno ancora avanti, e anche per insomma esprimere solidarietà e sostegno a chi è recluso all'interno della struttura di Sant'Anna.